ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi ed Enzino, alla parte tecnica Simone. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi, simpatici amici di Radio F. Questa è Piazza Alta. Ciao! Ciao simpatici amici! Simpatici. Ecco, loro sono Enzino e Marzi. Marzi non si sente. Ma tu però, non ti senti, ma noi ti sentiamo. Non mi sento niente bene, ma questo giovedì inizia in maniera scoppiettante, simpatici amici. Toglietegli il mix. Allora, giovedì 19 dicembre, simpatici amici, puntata speciale tutta natalizia, dedicata al Natale. Siccome non saremo in onda il giorno di Natale, o meglio, torneremo dopo Natale, allora abbiamo deciso di parlare del Natale. Avete un po' perché di noi siamo avanti. Perché noi siamo avanti. Punta. Siamo troppo avanti. Siamo avanti. Sai, venivo in Piazza Alta, mi sono incontrato da quanto siamo avanti. Stavo tornando indietro. Vabbè, ovvia la sua la iniziare, testa. Io andrei, sì, abbiamo musica, iniziato musica con la prima massima di Marcello. Andare, alla Marzi, grande vai, proprio. Sarà, vai Marzi, vai. Che partenza, ragazzi, che scarica energica, adrenalinica. Questi erano i Marlene Kunz e il brano si chiama Merry Christmas. È estratto dall'album d'esordio del gruppo del 1994 dal titolo Catartica. È proprio vero che il mondo è un po' come lo vedi, Questi probabilmente... Ma che c'entra? Veramente una partenza al fulmicotone. Ma perché Marzi, tu sei antiquato. Sì, ma... non c'è niente da fare. Va bene, che giorno così, era nel 1994 quando è uscito? Lo so, era un giovedì. È sempre giovedì. È certo. Simpatici amici, mi vuoi coinvolgere in questa cosa? Simpaticissimi amici, buonasera e benvenuti. Ecco, allora, intanto, diciamo chi siamo. È Enzino, Marzi, i miei compagni di viaggio. Io sono Sara. E in console, Simone. Oh yeah. Tutto insieme. Da contratto può dire due sillabe per volta, eh? Va bene, da contratto c'è una nota apposita. Allora, Piazzalta è il titolo del nostro programma. Perché? Perché Piazzalta è il cuore, il centro di Foiano. Noi siamo qui, direi anche dominiamo il punto più alto, Piazzalta. T'ascolterei per ore. Che carino. E che cosa vogliamo fare? Radio F? Mi sono persa, sì. Questa è Radio F. Come si ascolta Radio F? Con le orecchie, caro amico. Ecco, questa ci ha studiato tanto, Marzi si è impegnato durante tutta la settimana. È vero. FM 101.2. Ma vi faccio oppure una domanda. In streaming, yeah. Marzi, un attimo, sì, su www.radiof.it oppure per i più tecnologici, quindi Marzi dorme, non c'è. Da Facebook. C'ho da dire una cosa, no! Se non me la fate dire, io non vado avanti. Non la puoi dire perché non da Facebook. Sulle app, scaricando l'app per Android e per Apple. Oppure domani perché? Possono riascoltarci sulla nostra pagina Facebook. E salutiamo gli amici di Facebook. Sì, ciao. Simpatici che amici facebookiani. Numerosi ed affezionati. E tra l'altro cui fatevi Eddie sentire. Un saluto a Eddie. Sì, scriveteci. Scriveteci. Ecco, da lì è il momento dei saluti. Posso intervenire? Ma di prima quella cosa che volevi dire. Sì. No, perché stavamo dicendo come si ascolta Piazzalta. Io vi domando invece da quando si ascolta. Dal 1976. Dobbiamo far dire buoni. Okay. Quindi su l'ho detta, possiamo andare avanti. Fatto. Volevi salutare qualcuno? Devi salutare. Sì, ho tante persone da salutare che mi hanno sollecitato. Alterina, ciao Alterina. Ciao Alterina. È stato sollecitato. Giacomo, Alessandro ed i suoi amici della zona Giotto, perché lui sa di che cosa sto parlando, ha un entourage noi molto interessante. Però. Noi non lo sappiamo. Ti spiegherò però in un'altra puntata. Sì, Andrea, vabbè, nel fuori onda. Paola, tra l'altro, mi ha fatto anche una richiesta che chiaramente non metteremo, ma fai conto che di averla messa. Te la fischiamo a fine puntata. I will survive. Oh mio Dio. Abbiamo salutato tutti. Okay. Sì. Sei salutiamo a posto, anche Marzi. Marco che ci ascolterà non stasera perché non può, ma da domani sul nostro podcast sulla pagina Facebook. Be perfetto. Innovative. Abbiamo amici che ci ascoltano dall'estero? Stasera anche io sappia no. Sicuramente abbiamo degli amici che ci ascoltano da Milano e a tal proposito, verso fine puntata avremo un intervento di un caro amico che ci narrerà delle vicende natalizie. La nostra prima telefonata in diretta a Piazzalta, ragazzi. Ho notizia che in Groenlandia in un centro di pet therapy mettono la nostra trasmissione. Signori. Ma Marzi, cos'è un centro di pet therapy? Te l'ha spiegato il tuo analista? Esci, te l'ha consigliato? Andiamo con la musica, simpatici amici. No, diciamo solo appunto che parliamo di Natale. Sì, di Natale, ma soprattutto, ragazzi, del Natale a Foiano, perché questo è fondamentale. Il Natale a Foiano. Racconteremo storie, vicende. Io voglio sapere di più sui vostri dopo Natali. Natale in casa Cupiello. Natale a Foiano. Ecco, tra l'altro un Natale di vasariana memoria. Memoria, ovviamente. Yeah. How I wish that it would snow. Trees are on display now, and it's cold now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. I wish that I could walk. I wish that I could walk. All the light. Christmas Song. Questo è il titolo del brano che avete appena ascoltato. Loro sono i Ravionette. Sono svedesi? Danesi. Vabbè, ma questa mi piace. Aveva un sound, un groove tipo Sapore di Mare. Certo. Comunque, per chi magari si fosse sintonizzato adesso, questa è la puntata speciale Natale di Piazza Alta. Quindi tutta la musica che passeremo, ovviamente, è musica a tema, scelta appositamente da Simone, ovviamente, nel panorama musicale indipendente. Quindi Marzi è tagliato fuori. L'unico filo conduttore è chi l'ha scelta. Ok. Ma parliamo di noi. No, però io prima volevo dire una cosa, perché non abbiamo fatto un saluto. L'altra volta abbiamo chiuso la puntata con il photographer. Yeah. Che è arrivato e noi non l'abbiamo salutato, quindi lo salutiamo adesso. Salutiamo stasera. Mi sembra doveroso. Fatelo voi però. Direi un saluto ciao, caloroso. Ciao photographer. Ciao fotografo. Ciao. Vogliamo dire anche il nome di Ascanio, ciao Ascanio fotografo. E grazie, perché insomma, voglio dire, ci ha sopportato. Grazie, perché con Photoshop ho visto qualche immagine venuta molto veramente migliorata. Veramente sono venuto bene. Con un bel ciuffo biondo. Sì, occhi chiari, sì, sì, sì. Vero? Mi sì, ha snellito ti ha tolto delle rughe. No, quelle. Ma però la mia stazza le rughe. L'abbigliamento non l'ha modificato con Photoshop. È talmente particolare ed apprezzato. Era come la nostra questa musica. Sera è di peloncino verde. Beh, così, ma iniziamo a parlare. Sì, bene, iniziamo. Bene, bene. Aspetta, Marcello. Allora, fare la domanda prima. Se qualcuno potesse vederci. No, meglio di no. Se qualcuno volesse anche sentirci. Vai. Certo. Dunque, stasera non sarà un quiz. Cioè, meno male, senso, finalmente. O perlomeno io vi farò delle domande e poi voi racconterete, quindi diciamo non c'è tutto questo correre, non c'è gara, faremo non solo c'è gara, per narrarvi. Però via, una prova a pulsanti. Vabbè, sì, è diritto, sì, è diritto, porta bene. Ti accontentiamo, vai. Dai. Pronto. Marzi. Questo è Marzi, che è in tinta con la camicia, peraltro stasera il maialino. Cioè, il maialino è in tinta con la camicia, no, ma è la camicia, che è in tinta con il maialino di Marzi. Certo. E ora sedite anche Enzo, faccio la prova. Ah, Enzino, vai. Facevamo bene. Questo anche è Enzino, senza. Enzino. Allora, di che cosa vuoi sapere del Natale di Foiano? Ma allora, io partirei. Da dove vuoi iniziare? Partirei, ragazzi, dal ceppo. Che mi dite? Parliamo sul ceppo? Di Enzo. Enzo. Famoso in tutta la Valdichiana, il ceppo. Cos'è il ceppo? Il ceppo. Il ceppo, diciamo che è una tradizione che si è tramandata negli anni. Mi fate venire il mal di mare, scusa. Negli anni. Fino ad oggi quasi, come tradizione. Negli anni, solo che fino ad oggi. Nei modi in cui veniva un po' celebrato, tra virgolette, in passato, oggi se n'è un po' persa la memoria. Dovete sapere che, soprattutto in Valdichiana, e questo è risaputo in ogni dove, il ceppo. Consisteva in. Sei circondato! Vengo fuori! Concentrati! Con le mani alzate. Ti aspetta il tuo analista fuori. C'era un immancabile camino dove si svolgeva il rituale del ceppo. Te la racconto come fosse una narrazione. Bravo, una che bello! Bambini, tipo una veglia di Natale. Che debbano addormentarsi. Però non ti muovere, perché sennò gli fai venire a loro il mal di mare. Per i pochi che non lo sapessero, il ceppo è un grande ciocco di legno. Prima di tutto va detto che questa tradizione ha un'origine nordica, legata al dio Thor, figlio di Khmer. No, di Odino, se mi permetti. E della sua pianta sacra, che ora non andiamo ad approfondire. Era la quercia. Esatto. Io la facevo con il testuccio, ma vado. ma va bene perché, niente, perché la tradizione è bella anche perché ha delle deviazioni. E la luce emanata dal ciocco bruciante allontanava la negatività del buio e del freddo. Com'è? Poetico. Non è? Cappuccetto però... rosso. Ma vediamo a Foiano. Poetico. Pensa, come caro mio Marci, cara la mia Sara e cari tutti i nostri radioascoltatori, vero? Simpatici amici. Simpatici amici. Che a Foiano, ma anche in tutta la Valdichiana, fino agli anni 50, quindi fino a pochi decenni fa, si bruciava il ceppo, ma prima di bruciarlo veniva utilizzato per le sue rientranze e la sua particolare conformazione per nasconderci e poggiarsi sopra i regali che poi andavano ai bambini. Per i bimbi. Ovviamente non si parla di PlayStation negli anni 50, ma, iPhone, di frutta, ma di frutta secca e di dolcetti, qualche mandarino, magari, qualche dolcetto. Una noce, una mandorla. Esatto. E poi una volta, e questa è una tradizione tipicamente della Valdichiana e Foianese, una volta che venivano presi i doni e si accendeva il ceppo, quindi prendeva fuoco, tutta la famiglia si riuniva davanti a questo ceppo bruciante e davanti al fuoco ci si prendeva per mano e si cantavano scongiuri in vernacolo chianino, che io adesso che chiaramente vi risparmierò. Non riportiamo, anche certo, se ci darebbe sollazzo. Beh, però in una prossima puntata potremo fare solo il dopo vernacolo. Mezzanotte e Venere, sollazzo. Oddio. Allora, sì. Sei contenta? Sì, diciamo di ti stai sì, mi è piaciuta, alla mi è piaciuta terra, questo, o tu, Sara, questo racconto. Che vieni da molto lontano. Sì, dai paesi nordici. Quanto vengo sei contenta? Io. No, troppo contenta così. troppo contenta. Sono okay. Emozionata. E allora, direi sì che con il ceppo abbiamo Simone chiuso. Metti un disco? Canzone di Natale. Ah, questa è bellissima. Eccoli qua, sono già arrivati i parenti affamati. Mi strappano le guance a son di ganascine, intanto si divorano le mie tartine. Sei un uomo ormai, ma come sei sciupato, non sei neanche pettinato. Penso sfido io, da quanto mi son fatto, ho venduto pure il mio motorino nuovo. Sono a secco, sto Natale, Dio fa che non stia così male. Farà lui che è il boss del auto. Ciao Dulz, sono io. Ciao bello. Senti, allora ci si può trovare verso le 5? Sì, sì, vai, tutto a posto. Dulz, senti, io c'ho 20 euro. E allora niente, o mi dai soldi tutti o niente. Aspetta, senti, io c'ho un paio di guanti nuovi e c'hanno sempre l'etichetta. No, ma sono belli e poi ti fanno comodo a te con questo freddo, sei africano. Ma che cazzo vuoi, dammi i soldi, ci vuole 30 euro almeno. Dai Abdul, per stavolta ti porto 20 e i guanti. Dai, è Natale. Ma mi importa un cazzo a me di Natale, io musulmano. Ma per favore Abdul. E dai cazzo Abdul, sto male. E se stai male vai all'ospedale. Allora, una canzone di Natale direi molto particolare, questa degli Zen Circus che avete appena sentito da un disco del 2008. Una piccola curiosità, la vogliamo dire? Ma sì. Allora, si sente una telefonata, no? Beh, durante sì, questa canzone, e la voce che si sente al telefono è proprio quella di Abdul, il personaggio che viene citato. Un saluto Abdul. Il vero spacciatore citato nel pezzo, che oggi pare sia in galera. Veramente. Perché a Natale siamo tutti ecco, più Marzi buoni. Marzi si è spento, è rimasto ci sono. Alibito. Allora, per svegliarlo, l'arrotino. Si riparano coltelli, si riparano ombrelli, si riparano alberi di Natale. Donne, è arrivato l'arrotino. Bene. Ecco, vedi, deve sempre fare la coda. Non c'è niente da fare. Sara, vuoi sapere qualcosa sì, di Foiano, perché... del Natale? No, di Foiano, io di come... Allora, visto che abbiamo sentito una canzone sul pranzo di Natale, bellissimo. Allora io rimarrei. La so. Io rimarrei in questo argomento. Perché la sai, Marzi? Ti piace mangiare, vero? Io sì, mi dedico abbastanza volentieri a questa pratica a questa pratica culinaria. Devi perfetto, sapere, cara... allora, no, però dovrò fare una domanda. Ma no, io posso parlare anche senza a ruota domanda. Libera. No, a ruota sì, libera. Sì, a ruota libera. Però ecco, io vorrei sapere, insomma, che sì. cosa si mangiava il giorno di Natale, non adesso. Guarda, sono talmente ferrato sulla materia che lascio parlare Enzo. No, allora, il giorno di Natale veniva festeggiato con un pasto più abbondante del solito in Valdichiana e a Foiano nello specifico. Era la base di partenza, anche che non era particolarmente abbondante. Esatto, perché appunto negli altri giorni si mangiava veramente poco. Però in quel giorno, cari i miei simpatici amici a casa che state ascoltando, si mangiava la pasta asciutta fatta in casa. Pensati. La pasta asciutta fatta in casa, condita con sugo di... coniglio. Di coniglio. Già il fatto che si trattasse di pasta asciutta, detto anche impastato come lo sto dicendo io, era un evento. Hai già l'acquolina in bocca. Eh sì, perché si rompeva quella monotonia quotidiana della minestra di pane. E nessuno certamente sottilizzava sull'impasto se ci fossero più o meno uova. Erano già tutti contenti di mangiare certo. la pasta asciutta. Ma per secondo, caro il mio Marzi. Il secondo era quasi sempre un problema. Era di solito un coniglio annoiato. No, un coniglio annoiato. Non era stufato, scusa. Era stufato. Però te prova a mettere un coniglio in padella che sì, sei stufa. Anche annoiato. Sì, no. Che tristezza. Cioè, mi spiego, stufato, messo a piccoli pezzi in un tegame, insaporito da prezzemolo ed aglio, e fatto cuocere lentamente fino alla doratura. Ecco, ora la doratura. La ricetta del giorno. Vuoi che io muoro? Tu vuoi che io muoro? Bravo, getta d'oro. Si ricorreva a questo tipo di cottura perché il forno a legna veniva scaldato soltanto per, di solito, per cuocere il pane o in occasione di pranzi speciali con invitati estranei alla famiglia. Senti Marci, ma dimmi un po', dimmi un po', come qua, si concludeva? Qua, solo anzi, per Sara, te. Chiediglielo te, come si concludeva il pranzo? Già, arriviamo al dolce perché io sono golosa, quindi io direi che il coniglio lo passo. Niente, e c'era l'uovo di Pasqua. No, e il certo, il vinzanto. No, il pranzo certo era concluso solitamente con i cavallucci che si facevano in casa. Ma anche in tempi recenti venivano acquistati insieme ad un piccolo panforte, qualche agrume, mandarini, noci, il pandoro, il panettone. Sono venuti dopo, dopo Sara, perché tu hai una certa età. Come? E quindi, Enzo ne ha un'altra, quindi lui è la memoria torrone storica della nostra. Niente. Il torrone, niente. Quando parleremo di Cremona, è perché le uova l'hanno usate per fare la pasta. Vabbè, ma si fa così. Ma sei un po' interessata alla nostra cultura contadina, cara Sara? No, direi di mandare un po' di musica. Direi anch'io. Poi un po' di torrone. Sì, torrone, torrone, torrone. Foxes. Umbertos? No, forse ce la facciamo ad arrivare no a un gospel. Oh, yeah. Allora, questo è un gruppo folk rock degli Stati Uniti d'America, recente. E allora, il disco da cui è tratta questa canzone, when pensa Jesus, Marzi, pensa cosa hai appena sentito. Il disco è stato disco d'oro in Gran Bretagna e disco dell'anno secondo numerose riviste, cui Billboard. Quante riviste ci sono? Pensa che cosa ti sta facendo scoprire il nostro Simone. Ma pensa quanta gente dillo che potrebbe lavorare in campagna invece si mette a scrivere. Pensa un po'. Ma prima di passare all'argomento, Comunico che Marzi, abbiamo fatto delle foto in studio di particolari di Marzi. Affrettatevi, donne, affrettatevi. Andremo a pubblicare sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta e noterete il pandan fra il maialino, quale? Ah, il la maialino camicia e la carnagione e il colorito della carnagione di Marzi. Mio sì, malgrado sono con un golfino di pelo che verde, però vi abbiamo risparmiato nella foto. Tra l'altro è anche caldo. Sound idiozzi. Ci credo, è Pile. È Pile. Però 1976. Ah, ti sei freddoloso? perché parlare di me stasera? Parlo continuamente di me con il mio analista, ormai mi conosco. Già, l'analista, abbiamo già sviscerato questa cosa. L'abbiamo mai salutato l'analista di Marzi. Ciao. Un saluto e un ringraziamento all'analista di Marzi. No, che ce lo lascia per un'ora a settimana, che cosa lo vogliamo ringraziare? Mi sembra più che sufficiente, sì. Allora, è tutto cultura, ragazzi, cultura. Che i dite? Nostri radioascoltatori ci richiedono cultura. A te no. Hanno sbagliato frequenza, evidentemente. No, hanno, ora proprio frequenza, no, Marzi, in caso hanno sbagliato conduttori. Allora, abbiamo appena pubblicato la foto del particolare di Marzi sulla pagina Piazzalta, che veramente io, cioè, non potete non vederla, anche se ci riascoltate domani in podcast. Tornate un po' indietro rispetto al podcast e trovate la foto. E se non vi piace, ditelo. No, ditelo a tutti. A quanti mi piace siamo arrivati, a proposito? Bravo, brava, fai queste domande senza mettersi d'accordo. No. Sono quelle che piacciono. Vabbè, ma tu sei pronto. Oltre, siamo a ben oltre 200. Oh yeah. Sarebbe Merry Christmas. Un romano inglesizzato. Oh yeah. Wow. Per cosa Foiano è famoso nel mondo sotto Natale? I 200 amici sulla pagina Piazzale. Wow, vabbè, abbiamo passato i 200? Ormai siamo andati ben oltre. Siamo ben oltre. Oltre, sì, siamo noi. Lo sapevate voi che le luminarie di Foiano, fatemi parlare, stanno contendendo nel mondo la loro bellezza al Rockefeller Center in questo periodo? Dici quelle di Foiano? Parlaci delle luminarie di Foiano. Dovete sapere che per molti anni a Foiano le luminarie sono state decise e progettate direttamente dal comune. Questo perché? Perché, come è solito per noi foianesi, com'è, come non è, non ci siamo mai trovati d'accordo su chi dovesse fare questa prendere questa iniziativa, come farla, eccetera. C'è da dire quindi che il comune, prendendo in mano questa situazione, ha accontentato un po' tutti e ha scontentato un po' tutti, di solito, o no? Ma sì. Cioè, non vi piacevano le luminarie degli anni scorsi? Com'erano? Non ci piacciono per partito preso. Ah, proprio no. Cioè, anche fossero belle. A prescindere, anche luminarie accese. Siamo per un popolo in critica permanente. Perfetto, ma c'è qualcosa invece che vi piace, non lo so, di quest'anno, degli addobbi natalizi di quest'anno? Guarda, quest'anno io, salendo proprio su in Piazzalta, cara la mia Sara e cari i miei amici di Vasariana Memoria, abbiamo notato delle luminarie veramente belle, con degli addobbi aerei, anche con del muschio, che vanno su questi luci muschio? Muschio, probabilmente sintetico, su queste luci azzurrine. Ma la cosa particolare, pensa che alcuni anni fa ricordo, eravamo io, è arrivata. Dunque, alcuni anni fa avevano messo degli alberini con delle palle di Natale rosse. Queste palle, è stata un'esperienza traumatica, bellissima. Perché le palle dopo 5 minuti erano sparse per tutto il paese. Oddio, e chi le ha sparse? Hanno fatto alla ruffa. Alla ruffa, non lo so chi le ha sparse. Però il concetto di sfera tirava sempre. Però quest'anno, con mia somma sorpresa, ho notato che anche quest'anno gli alberini si sono ripresentati. Vengono riproposti senza palle, ma con dei fiocchi. Per ovvi motivi. Con dei fiocchi molto carini. Pare che le abbiano organizzate le scuole di Foiano, questi alberini, e via. Ma ci sono dei messaggi scritti dai bambini. Ascolta, Sara, bisogna che questa cosa ce le chieda prima, perché facci capire. Diventi rosso. Stasera divento rosso. Facci capire da che parte stai. Concludiamo. Io dalla parte degli alberini con fiocchi. A proposito di alberini, concludiamo dicendo che fino a qualche anno fa avevamo anche un imponente albero di Natale in Piazza Fra Benedetto. Sì, esatto. Forse alto quasi fino a 10 metri. Mastodontico. Addirittura direi. A un certo punto ne venne messo un altro anche in Piazza Matteotti. I due uguali. C'è stato anche un concorso di bellezza tra i due alberi. Poi sempre più piccoli. Quando e a un perché? Certo punto, come non fu, tentarono addirittura di segarlo un albero. Un freddo quell'anno. E da allora non abbiamo avuto più l'albero. Yeah. can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Can you hear me? How can he be saved? See me, feel me, touch me, heal me. Can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you, can you, can you hear me? How can children, they get so excited. Waking up on Christmas morning hours before the winter sun ignited. They believe in dreams and all they meet, including heaven's generosity. People in round the doors to see what parcels are for free and curiosity. Poi c'erano queste luminarie, mi ricordo un anno, con dei teli. No, Enzina, sembrava di essere in via di Calzaiuoli a Firenze, forse con un po' meno di muschio, però insomma diciamo sì, che era uguale. Però Enzino, sì? Dobbiamo dire una cosa. Noi abbiamo appena ascoltato un pezzo della storia della musica. Ah sì? Perché, sì, quelli che avete, simpatici amici, appena ascoltato, erano i The Who. Chi? No, scusa, non ho capito, chi erano? The Who. Si è fatta tre volte, mi fa sempre ridere. A parte ma io lo Marzi, faccio per te, capito? A parte Marzi, che finora ha dormito. Simpatici perché... amici. No, appunto. Ma sai, io se non sono on the air. Volevo salutare Matteo che ci sta ascoltando. Ovvero... Ciao Matteo. Ciao Matteo. Ciao, simpaticissimo ciao. Amico. Da dove ci ascolta? Credo da Montagnano. Fogliano. Ah, no. E da quando? Dal 1976. Radio F. Bene, allora dicevamo, Enzino, dicevi Marcello. Dei no, che diciamo, sto golfino de pelo che peraltro spella. Allora, cioè, una di queste sere. E poi è verde muschio. Ma non hai capito che mi sono vestito da elfo? Ma se è verde muschio, no, è io muschio sono vestita da elfo, semmai che c'ho il golfino verde vivo, te ce l'hai verde morto. Siamo circondati da noi stessi. Ed è questo il problema. Non troviamo la via d'uscita. Dunque, allora. Allora, ricapitoliamo. Sì, allora, torniamo agli. No. Questa è Piazzalta. Questa è Piazzalta. Un programma sì. di Radio F. Eh certo, dal 1976. E su Facebook. Certo. Gli piace. Ma non c'è domani, niente da fare. Da domani anche su perché Facebook. Perché in realtà lui l'ha scaricata l'app. Perché lui ce l'ha sul telefono. Però ora. Dunque, ci vorranno almeno altre tre sedute. Prima che impari dall'analista. A usarla. Esatto, prima che impari a usarla. Stasera ha imparato i numeri. Abbiamo già fatto. E questo un magari a casa avanti. Pensano anche che sia una battuta, ma in realtà no, è vero. Effettivamente, è vero. Io sono un antesignano del cellulare, ma stasera ho scoperto una funzione nuova. Sì, i numeri, non una funzione, i numeri. Marzi. L'accensione, il tasto per accendere. Fantastico. Dopo dopo ti spiego come si fa a spengere. Okay. Guardate, sì, ragazzi, allora, anzi, essendo in radio, ascoltate. Tra poco avremo una rivoluzione nel nostro programma. La nostra prima telefonata in diretta. Direttamente in collegamento con Marconi. No, Guglielmo. Sasso Marconi. Sasso. Scusa, avevo capito male. Pensavo tipo seduta onirica. E che cosa ci dirà questo simpatico amico? Andremo a parlare di un argomento importante. Delle recite natalizie, cara la mia Sara, cari i miei amici, cari i miei vasariani memoranti. Ma per caso non sarà mica che voi tempo fa vi siete messi alla prova? Marzi, come dillo, dire, confessiamo, ricordo, facciamo outing. No, outing fallo te. E fa il book fatto te. Fare della fatina. È rimasto scioccato. Siamo qui oggi, ci sarà un perché. Anche noi e vorrei ricordarlo stasera. Ma se siamo qui è anche perché abbiamo avuto delle esperienze, quindi dei traumi infantili a seguito mi stai confondendo, di esperienze teatrali e artistiche che abbiamo avuto nel tempo passato. Che bello, con che Marzi cosa avete ci fatto? Siamo conosciuti, ma non biblicamente ovviamente, ma ci siamo conosciuti però parlavamo comunque di temi del genere ancora italiano, sì. Proprio in quell'occasione facevamo le scuole medie all'incirca, era un freddo inverno. Ma allora eravate grandi, io le facevo all'asilo. Ma noi non ci riusciva all'asilo, noi sarà con quelli dell'asilo. Tu eri troppo avanti. Noi sarà con quelli dell'asilo, ma noi due no. Te pensa che io ho anche rimosso il ricordo, sono arrivato solo al battesimo. Niente, ora. Praticamente, ricordo solo del battesimo. Ovviamente era la storia della natività. Uh-huh. E dove noi due avevamo un ruolo secondario. Io ero Giuseppe e lui era Dio. Chi era Dio? Scusate. Era Marzi. Ecco, tra l'altro è un sembrava errore. Il minimo un ruolo... è un ha sostituito qualcuno. No, un ruolo azzeccatissimo. Perché praticamente recitava solo in voce. Non si vedeva mai. È come c'erano, la radio. C'erano solo dei dettagli su Facebook che ogni tanto venivano inseriti. Bellissimo, andiamo con oddio, con chi andiamo? Con Marzi, ma dillo dopo, va. Ma diciamolo dopo, dai. Feels like fire, I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your Momento di romanticismo, perché questa, ecco, come rovinare il momento canzone, di romanticismo. Bellissimo. È arrivata la routine. Veramente comunque brava, questa veramente era Frankie Goes to Hollywood. Marci, questa l'avrai insomma bella, sentita. Bella, l'ho ballata. Lenta, ovviamente stando sì, nel ballo del mattone. Ciao fatto. Simpatici amici. Vedi, ogni tanto degli scatti è quando no, gli connette evidentemente ci sono delle scintille, le sinapsi sì. Sì, no. Ogni tanto il castorino che pedala. Le non-apsi anche sì, soprattutto siamo arrivati a un momento storico per questa trasmissione. Allora, segnatevi intanto l'orario sono le 22:50 di questo 19 dicembre 2013, giovedì. Stasera giovedì, siamo ovviamente era giovedì, era giovedì, era un giovedì e a Piazza Alta va il in onda la prima telefonata. Sono in emozionato, diretta. Riccardo. Ciao Riccardo. Pronto? Ciao Riccardo. Riccardo. Riccardo non c'è, ma ora tornerà. Riccardo, aspetta, ora ci provo io. Riccardo, mi senti? Può darsi che la prima telefonata di Piazza Alta vada la settimana prossima. D'altra parte, telefonando dalla Groenlandia. Spieghiamo perché. Sì, eccolo. Chi è il più bello? Spieghiamo tutto. Allora, spieghiamo perché Riccardo dovrebbe essere con noi. Già, ma non il motivo c'è sempre per stare qui insieme a noi. Sì. Perché dovevamo raccontare. Riccardo è uno dei più grandi artisti che sia mai stato a Foiano. Infatti, non forse c'è non mai c'è stato. Mai stato veramente. No, in realtà è foianese, ma abita a Milano. Eccolo, sentiamo. Eccolo, pronto, Riccardo? Ah, l'arte, mi senti? Ma perché noi siamo lontani? Non ti sento più. Non mi senti più. Non dire niente allora, se non ci senti più, perché noi ti sentiamo. Apriamo la finestra. Eccoci, pronto sì. Riccardo? Ricca. Pure ogni tanto si sente. Ogni tanto. No, ma noi ci piace. Beh, facciamo una mezz'ora così. Sei in onda, Riccardo. Contieniti. Prova. Prova. Riccardo, mi senti? Non mi senti, Riccardo? Uno dei momenti più alti della radiofonia. 3, 2, 3. Bene, che è un artista, l'abbiamo capito dal modo in cui fa la prova a microfono. Il fatto è che noi lui lo sentiamo, e lui che non sente, non noi. Sente noi. Riccardo, ci senti? Non c'è. Ci senti? Non c'è, dice che non c'è. Dai, Ricca, che ci senti? Ci io senti? Vi sento e non vi sento. Ma adesso ci senti? Adesso vi sento lontani, ma mi posso arrabbiare. Oh, allora guarda, finora ti abbiamo sentito fare anche la prova microfono. La fai veramente bello. Professionalmente. Anch'io veramente. Mi sento e non mi sento, ma questa è una questione questa è lo psicanalista su cui stiamo lavorando col mio analista. Caro il nostro Riccardo, noi ti abbiamo presentato come uno dei più grandi artisti mai stato a Foiano. Giusto. perché non stai più a Fogliano. Giusto. L'umiltà è la caratteristica principe, giusto. Questo l'abbiamo dato per acquisito che tu sia un grande artista. E come artista. Artista noi ti vogliamo intanto ringraziare per essere qua con noi e raccontarci, e vogliamo che tu ci racconti un po' i primi passi della tua arte, ovvero le recite natalizie. Sapevamo di incontrare il tuo favore, prego. Guarda, questa è una sorpresa meravigliosa, perché mi dai l'occasione di ripercorrere un inizio di carriera folgorante, tra l'altro. Folgorante, quindi, mi ricordo. Cosa dire? Allora, il ricordo più bello innanzitutto è stato questa recita fatta al Teatro Apollo, che era per noi, no, il cinema dei film porno. Lo sapevo che abbiamo fatto bene a chiamarlo. Siamo in fascia protetta, quindi l'idea di fare una recita parrocchiale nel tempio del cinema hard per noi era una cosa straordinaria, ma battute stupide a parte, era l'abbiamo chiamato per misurare noi, la nostra generazione, con lo spettacolo dal vivo, con le assi del palcoscenico, con la polvere del palcoscenico, assieme a tanti giovani foianesi che oggi sono professionisti affermati in tutti i settori, tranne che in quello dell'arte. tanti di quei nomi, abbiamo messo in piedi questo spettacolo che era un musical, una commedia musicale, naturalmente. Si parlava di Natale, era a sfondo, come si chiama il protagonista, quello che nasce il 25? Bambino. Insomma, un signore, il protagonista era lui, che veniva interpretato da? Era interpretato da Giovanni Santi Laurini, Dire, che salutiamo calorosamente anche lui. Grandi ricordi, quasi ingegnere affermatissimo. Certo, te invece che ruolo avevi? So che eri nel coro, potresti anche cantare delle voci bianche. Allora, intanto vi sento malissimo. L'altro ieri ho telefonato in Congo, si sentiva perfettamente. Non c'è collega, è una cosa. Ma si sa, in Congo. puntini. No, io ero parte del coro e avevo anche alcuni pezzi come cantante solista, pensa un po'. Di cui una canzone ricordo benissimo l'interpretazione magistrale fatta con il professor Tommaso Pasquini, del del dottore. Illustre filosofo foianese nel mondo. Che tutti ci invidiano, tanto bene le facce che avevamo noi, ma soprattutto le facce che avevano quelli che erano venuti a vedere lo spettacolo. Che cosa leggevi nei loro sguardi, Riccardo? No, ma sai che cos'era veramente bello? Perché poi erano anni magici a Fogliano. Su quel palco lì poi si faceva poco tempo dopo la canzonetta del carnevale. Ti richiameremo anche per questo, te lo prometto. No. Perché faremo una puntata intera solo ascoltando i tuoi aneddoti su questa festival della canzonetta, che tra l'altro io e Marci una volta ci siamo pregiati di presentare una volta. L'edizione più bella. Sei troppo buono. Manderemo il bonifico per questa cosa. Era proprio un'edizione meravigliosa, me la ricordo perfettamente. Certo, 14 ore di ballo, insomma, chi se le scorda. Va bene, allora, Ricca, noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza. Hai dato un momento di umanità alla nostra trasmissione. Ricordiamo a chi ci ascolta da Milano, milioni e milioni, che possono passare per il tuo locale a trovarti in via. Certo. Poi stasera c'era meraviglia. Ricordaci l'indirizzo. In via Padova, famosissimo. Via Padova 133. Andiamo tutti da Riccardo. Non possiamo dire tanto, siamo. Andate a nome di Enzo, troverete tutto già pagato. A nome, nel conto di Enzo. Marcellino e Marcellino. Marzi, a posto, sì. Grazie Ricca, ci risentiremo presto per altre puntate. Grazie a voi, baciate la Sara, mi raccomando. Sempre, ogni 5 minuti. Provvederemo. Ogni volta che va un disco, infatti ora riniziamo. Musica. Grazie Ricca. Ciao. Ciao. It's Christmas. Meraviglia. Questo è il titolo di questo brano. Marzi, questo lo conoscevi. Cominciamo ad entrare in sintonia, io e il mio Sibo. Basta. Tra l'altro, voglio dire, nomi di tutti di tutto rispetto. Sono in questo super gruppo quasi Bono felice. Degli Bog, ti ringrazio. Sapevo, sapevo che prima o poi scattava la scintilla. Ma io anch'io ci avrei scommesso. Non pensavo che tu fossi così irruento. Ha dormito per grazie. Tutta la puntata. Cioè, no, si è svegliato adesso. Ciò che a me mi smuove. Ecco, se mi fai questi complimenti già potevo fare altre due ore. Attacca peccato, la music. Peccato che sono le 11. Dimmelo alle 9:15. No. Scusa, ti ho interrotto, puoi procedere. Scusa, è stata tanta l'emozione, prego. Sì, certo. Si sa che l'emozione è. Ridimmi non il cantante. Ha voce. Ridimmi un po' il cantante Sting. Della. Sting. No. Allora, vuoi dire che mi sono fatto delle illusioni? Preferisci Simon Le Bon? Grazie, grazie. Ancora. E sapevo che tu fossi una donna dai gusti raffinati, quindi il fatto che tu riesca a percepire. Preferisci Boy George? Boy George un po' meno. Un po' dopo. Alla fatina. Dopo 7-8 volte. Benissimo. E allora ed ora un velo di tristezza no. Cala nei nostri voglia. Cuori. Ma no Enzo, no. Non la mettere così. T'ho diventato il rosso. Natale è gioia. Non ha preso la pasticca. Lasciala. L'ho presa. Non ha fatto effetto. Non è che hai preso quella di Marzi. Eh no. Se no il bremuro si prende la mattina. Ero diventato blu. Ok. Simpatico amico. No. Stiamo quesito per i nostri radioascoltatori. Sì. Da quanto tempo Enzo spara cavolate? Dal 1976. Ok, ragazzi. E Marzi? Dal un po' prima. Un po' buon prima. Natale. Sento la sigla. Auguri. Sì. Passate un bellissimo davvero. Natale. Fate delle buone feste. Noi torneremo. Non mangiate troppo. Più avanti. Attenti sì, alle carie. Più avanti. Torneremo dopo il primo dell'anno. Che non lo so, torniamo il 26. Ma voi state sempre in guardia. Ve lo potremmo fare delle incursioni. Rimane così sospeso. Infatti, su Facebook vi faremo sapere quando torneremo in onda. Ma intanto, davvero, buon Natale a tutti voi. Io vi auguro buon Natale anche a Enzino. Grazie, buon Natale anche a te, Sara. Grazie, Marzi. Un buon Natale a tutti. Ciao simpatici e amici. E anche da Paolo un buon Natale a Paolo. E ora Simone urlerà un buon Natale incredibile. Vabbè. Troppo. Sono quattro sillabe in fila, ragazzi. Chiediamo ciao. Troppo. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Super Tra Fra Sara, Marzi, Enzino e alla conduzione tecnica Simone. Have a nice Christmas! Be innovative.